Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Avevamo un appuntamento. Oggi ci siete tutti, avete portato qualche amico. Noi ci siamo. Paolo Corleone in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Voilà, andiamo subito ai temi del nostro sommario. Trigemino, un nervo che fa vedere le stelle. Seno sotto controllo con mammografia ed ecografia. Adiuvanti nei vaccini. Cosa dicono le ricerche? Nevralgia del trigemino. Basta la parola, verrebbe da dire, perché anche chi non ne ha mai avuto esperienza diretta sa bene che si tratta di un dolore al viso straziante che spinge chi ne soffre a consultare diversi medici in cerca di quello capace di trovare la causa e la cura al suo disturbo. Ma direi, prima di addentrarci nella descrizione dei sintomi e delle terapie, credo sia importante anticipare che la nevralgia del trigemino è una malattia ben curabile, a patto naturalmente che sia affrontata seriamente con le cure adeguate. Allora oggi possiamo approfittare dell'esperienza di uno dei massimi esperti nella cura del dolore neurologico, il professor Giorgio Crucu, ordinario di neurologia della Sapienza di Roma e autore di numerose pubblicazioni sul dolore. Professore, buongiorno, bentornato. Buongiorno Nicoletta. Professore, nevralgia del trigemino, un dolore facciale che ha tante facce, perché cambia sia la localizzazione che la durata e l'intensità. La nevralgia trigeminale può essere complicata. C'è una forma tipica che ha dei sintomi molto caratteristici, per cui per noi è relativamente facile fare la diagnosi, però ci sono molte forme atipiche che sono di confine con altri dolori di tipo diverso. Allora, professore, vogliamo iniziare a raccogliere qualche notizia in più su questo nervo, capace, come abbiamo detto nel nostro sommario, di far vedere le stelle? Dicono che sia un dolore veramente insopportabile. Il trigemino è organizzato con una parte periferica e una parte centrale. Sì. La parte periferica ha i neuroni situati nel ganglio trigeminale, che, tanto per far capire gli ascoltatori, si trova dietro l'occhio e all'interno dell'orecchio, è molto grande e in periferia si divide in tre branche. La superiore è responsabile della sensibilità della parte anteriore del cuoio capelluto, scende sulla fronte, gli occhi e il naso nella parte centrale. Sì. La seconda è più in basso e copre lo zigomo, le guance, il labbro superiore. La terza, che è la più grande, ha una parte sensitiva e una parte motoria. La parte sensitiva si occupa della cute, della tempia, della parte più periferica delle guance, il labbro inferiore. Sì. E naturalmente anche tutti i denti, perché anche la parte all'interno della bocca è sempre di competenza del trigemino, anche la lingua. E in più ha una parte motoria che si occupa dei muscoli masticatori, il massetero, il temporale. Quindi, professor Crucu, noi dividiamo, proviamo a visualizzare il nostro viso, a dividerlo in tre parti: quella che va dal cuoio, dall'attaccatura dei capelli fino a metà naso, quella che interessa lo zigomo e la parte superiore, il labbro superiore, e quella che dall'orecchio arriva fino alla mandibola, e comprendendo lingua e labbro inferiore, giusto? Perfetto, bravissimo. Allora, questa è un po' la geografia del trigemino. Voi restate con noi, chiamateci se avvertite questo dolore facciale, che cosa state facendo, se volete delle indicazioni dal professor Crucu, che, come ci ha anticipato, ci sono dei dolori che sono anche per il medico molto semplici da diagnosticare, insomma lì non si sbaglia, altri che mettono lo stesso medico, professore, un po' in difficoltà, nel senso che ci vogliono degli altri esami, è questo che possiamo dire. Quindi voi chiamateci 800 24 00 24, noi come sempre ci occuperemo di voi. I messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. E adesso uno spazio dedicato a noi donne. Parliamo di mammografia ed ecografia. Non sono la stessa cosa, non sono gli stessi esami, anzi sono esami complementari che vanno utilizzati per tutelare la salute del nostro seno. In linea con noi è tornata a trovarci, io sono davvero contenta, la dottoressa Giovanna Gatti, assistente della Direzione Scientifica e Senologia dell'Istituto Europeo di Oncologia. Buongiorno, bentornata. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, dottoressa Gatti, sappiamo che sono due esami, sappiamo che uno non sostituisce l'altro, anche se la tentazione è forte. Allora, iniziamo a dire a che cosa serve la mammografia. La mammografia vede molto bene le lesioni del seno piccole, quelle a forma di stella, e le microcalcificazioni, cioè i piccoli depositi di calcio che possono esistere nel seno. L'ecografia invece? L'ecografia vede molto bene i noduli. La differenza fondamentale è che l'ecografia legge bene il seno denso, cioè il seno giovane, oppure il seno che è molto tonico, molto denso per la somministrazione, per esempio, di ormoni. Certo. Allora, andiamo ai tempi, dottoressa Gatti. Quando iniziare e da quale esame? Si inizia con l'ecografia, suggeriamo di cominciare dai 30 anni con un controllo all'anno. Dai 30 anni ai 40 è sufficiente un'ecografia mammaria all'anno seguita dalla visita senologica. Dai 40 anni si comincia con la mammografia, sì, senza abbandonare l'ecografia, perché, come avete detto molto bene, sono due esami complementari, quindi uno non esclude l'altro. Dai 40 anni si fa di solito la mammografia ogni 2 anni fino ai 50 e si tiene l'ecografia ogni anno. Dai 50 anni tutto diventa annuale, sia mammografia che ecografia. Dai 50 anni, ripetiamo, in su. Dai 50 anni in su. Molte donne infatti invece quando arriva la menopausa dicono non mi controllo più e non vanno né dal senologo né dal ginecologo. No, io ci tengo sbagliata. Molto perché vero che è frequente. Sì, perché il rischio aumenta, non deve essere una cosa drammatica, però ci vuole l'attenzione alla propria salute. Il rischio aumenta dopo la menopausa. Un controllo all'anno dal ginecologo e un controllo all'anno con mammografia ed ecografia. Poi sarà il radiologo a dirci quando smettere con l'ecografia, perché il seno verrà visto molto bene solo dalla mammografia. Naturalmente questo sono indicazioni per chi non ha casi in famiglia, vero, sì, dottoressa Gatti? Perché sì, se ci sono casi in famiglia i controlli vengono anticipati. Vengono resi un po' più intensi e a volte viene messa anche la risonanza magnetica mammaria. Però sai, i casi in famiglia vengono poi valutati. Se sono 2 o 3 casi di solito non c'è un rischio reale in più. Bisogna fare una valutazione precisa, ci vogliono tanti casi in famiglia di primo grado, quindi anche lì non vorrei spaventare le donne. Comunque il messaggio è affidatevi e soprattutto controllatevi. Sì, assolutamente, affidatevi per prima cosa ai medici di medicina generale, che poi sapranno cosa consigliare. Dottoressa Gatti, un abbraccio, grazie per essere stata con noi. Arrivederci. Pronto soccorso. Dolore facciale, afite o sordo, urente o ascossa, localizzato o irradiato, parliamo della nevralgia del trigemino. Professor Crucu, se questo nervo fosse una persona sarebbe un tipo, come si dice, da tenersi buono, perché è grosso, il più grosso delle 12 paia di nervi che attraversano il nostro cranio e sa far male, spesso la fa franca, professore, lei in parte l'ha anticipato, perché la colpa del dolore viene attribuita ad altri. Sì, in effetti, come dicevo, soprattutto in passato, adesso meno, ma l'intensità del dolore, il fatto che spesso si avverta anche all'interno della bocca sull'arcata dentaria, ha fatto sì che per anni vedevamo persone che arrivavano praticamente senza denti, perché passavano da un'estrazione dentaria all'altra e restandono poi naturalmente delusi e con meno denti certo, in bocca. Sdentati e doloranti. Esatto. Quindi Massimo ci chiama da Isernia. Massimo, buongiorno. Buongiorno, volevo fare una domanda al professore. Sì. Se è possibile. Ho un formicolio sotto alla bocca, no? E non so se questo possa dipendere proprio dal nervo al trigemino. Lo chiediamo subito al professor Crucco. Grazie. Noi abbiamo parlato di dolore, Massimo invece introduce un altro sintomo, il formicolio. Beh, il formicolio comunque è un'attività di tipo irritativo, spontaneo, che comunque denota una disfunzione delle fibre nervose. La cosa più semplice è innanzitutto sapere se da un lato solo o da due lati, perché se da un lato solo è molto probabile che sia trigemino, sì. Se invece è da tutte e due le parti ci sono molte altre condizioni che possono produrre formicolii. È la stessa cosa che sulle mani. Se uno l'avverte su tutte e due le punte delle dita è meno preoccupante che se non è una sola, insomma. Certo. Professore, c'è un'età particolare di insorgenza della nevralgia del trigemino e c'è un genere che è più colpito di un dell'altro? Sì, sì. Le sì. Donne, guardi, tanto siamo sempre noi, è vero? Sì. Ecco, ci ho preso. Praticamente nei dolori craniofacciali esiste un'unica condizione che ha una forte prevalenza nel sesso maschile, e che è la cefalea a grappolo. Sì. Ma in tutti gli altri casi c'è una prevalenza femminile, anche se nella nevralgia trigeminale non è così spiccata come per l'emicrania. Il rapporto è circa 3-2, quindi non è così quindi netta. Ce la distribuiamo. Il ce modo, ecco, magari la differenza di come poi lo raccontiamo e di quanto ci lamentiamo. No, non voglio far polemica. Non è vero, cioè, il paziente con nevralgia trigeminale ha un dolore serio. E chi l'ha visto in atto vede chiaramente dall'espressione, dalla grimace che fa il volto del paziente che si tratta appunto di quello. Circa l'età di insorgenza, nelle forme classiche, cioè quelle non secondarie a patologie maggiori, chiamiamole benigne se vogliamo, l'età di insorgenza di solito è dopo i 50 anni con un picco tra 60 e 70. Le leggo alcuni messaggi. Mio marito ha la pelle del viso sensibilissima. Per lui anche le carezze sono dolorose, come farsi la barba, spazzolarsi i denti. Mi viene il sospetto. Una moglie preoccupata. Sì, sì, ha ragione, perché questo potrebbe proprio essere una nevralgia trigeminale tipica. Difatti uno degli elementi diagnostici più forti è il riscontro di meccanismi che triggerano il dolore, con stimoli molto lievi, molto leggeri. Ci sono pazienti che hanno il trigger sulla faccia e allora per esempio struccarsi o farsi la barba diventa un problema. Sì. E, a volte si asciugano il volto senza strofinare l'asciugamano, ma semplicemente appoggiando e riappoggiando per evitare lo scivolamento, lo strofinio del volto. Altre volte, se la zona che fa da grilletto e all'interno della bocca imparano per esempio che la pronuncia di certi fonemi fa scatenare le scosse e quindi parlano tutto in un modo strano, lavarsi i denti, insomma una serie di attività. Una vitaccia però, ma questa si può considerare una sorta di pre-nevralgia del trigemino? No, è già nevralgia. Andremo naturalmente a capire come. Voi fate diagnosi, ma ho Vincenzo da Bari e poi altri messaggi. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno, intanto complimenti per la trasmissione. Grazie Vincenzo. Volevo porre una semplice domanda. Dunque, mio suocero ogni tanto, saltuariamente, ha dei dolori, delle fitte a livello di cuoio capelluto e deve mettersi la mano per cercare di tamponare un po' questo dolore. Volevo solo sapere se questo potesse in qualche modo dipendere trigemino. Ha ragione Vincenzo, perché noi abbiamo proprio diviso il nostro viso in tre fasce e come ci racconta Vincenzo, suo suocero rientra nella prima. Professor Crucco, abbiamo fatto noi la diagnosi, io e Vincenzo, ma la parola a lei. Evidentemente lei ci ha spiegato bene. Beh, diciamo che il territorio e il carattere temporale del dolore, cioè fitta, che implica che è un dolore improvviso e di breve durata, è proprio caratteristico delle nevralgie. Il territorio va anche bene sempre che sia da un lato solo, cioè sì. se lui avverte queste fitte sia a destra che a sinistra, un po' avanti, un po' dietro, ci sono altre possibilità. Se invece è sempre lo stesso territorio da un lato solo, è molto più probabile che sia trigemino. Voglio leggerle questo messaggio che mi sembra curioso. Da un paio di settimane, tutti i giorni a metà pomeriggio, ho un dolore intenso all'occhio con lacrimazione. Il dolore dura 10-20 minuti e cessa quando il naso inizia a colare. È possibile si tratti di nevralgia del trigemino? No, questo è bellissimo, è quello a cui mi riferivo prima, la cefalea a grappolo, immagino che sia un maschio, è una forma vasomotoria in cui l'errore è con dei meccanismi simili a quelli dell'emicrania, che però interessa anche il trigemino, sì. Ma non è la nevralgia trigeminale, e si manifesta di solito per alcune settimane, per questo si chiama grappolo, poi ha fasi di mesi in cui non c'è. Sì. E poi di nuovo si ripresenta. Per me è molto divertente, perché quando avevo letto sui libri di medicina questa cosa stranissima, che c'era il dolore, l'occhio lacrimava, poi quando alla fine colava il naso, finiva il dolore, io francamente non ci credevo. Poi è venuta anche a me questa malattia. La maledizione. sì, ho dovuto dire che in effetti è proprio così, avevano ragione. Mio figlio, 8 anni, mi dice spesso che gli fa male la mandibola, non ha carie e porta l'apparecchio fisso. Non può essere il trigemino, vero, essendo così piccolo? Ci scrive una mamma. Sì, innanzitutto è troppo piccolo perché sia il trigemino. E poi non descrive il dolore a scossa elettrica, improvviso. E invece, anche se non ha le carie, il fatto che debba, diciamo, fare lavori ortodontici portando un apparecchio fa pensare che il suo dolore sia più ragionevolmente dovuto proprio alla meccanica, quindi stiamo assolutamente dei denti, quindi stiamo sentire, assolutamente tranquilli. Sì, conviene sentire un ortodontista. Certo, ma dato che noi abbiamo detto che molti dei pazienti arrivavano da lei sdentati e doloranti, giustamente questa mamma avrà detto oddio. Sì, senta, no, però sono quelli di 60 anni che arrivano sdentati. Professore, ma io voglio capire, quando si avverte questo dolore? Abbiamo visto che il fatto che sia presente da una parte del viso ci dà un'indicazione in più. Sì, ecco, sì. Che cosa faccio? Prendo un antidolorifico? Devo andare dal medico di base, parlarne? Metto il cappello per coprirmi dal freddo, perché arrivano molti messaggi patisco molto il freddo. Che cosa si fa? Dunque, patisco molto il freddo è un sintomo specifico che riferiscono molti pazienti, ma per tantissimi magari perché non portano la maglietta di lana, sa che non si usa. La cosa giusta è consultare il medico di famiglia, perché questa patologia a volte purtroppo ha dietro di sé qualcosa di grave, cioè circa nel 15% dei casi sono delle forme sintomatiche di sclerosi multipla o di piccoli tumori all'interno del cranio, quindi non è una cosa da prendere sotto gamba. Infatti molti medici consigliano una risonanza magnetica dell'encefalo insieme ad alcuni esami neurofisiologici. Io vorrei sapere da lei, professore, se è un iter che vale per tutti, oppure si selezionano i casi, perché sono esami comunque per cui ci sono delle liste d'attesa. Sì, capisco che sia importante escludere problemi seri. Diciamo che se la forma è assolutamente tipica, nel senso che ha avuto un esordio in età avanzata, inizia dalle branche inferiori, cioè inizia dalla zona della bocca, perché già quelle che iniziano fronte e occhi sono più pericolose. Oppure se hanno un esordio più giovanile, anche devono far venire il sospetto che non sia una forma tipica. Sì. È conveniente comunque, secondo me, fare queste indagini. Prima l'esame neurofisiologico, che costa molto poco, si chiama riflessi trigeminali. Sì. Più o meno su qualunque ospedale o centro che abbia un'elettromiografia si fa fare anche questo. E poi la risonanza magnetica. Purtroppo la TAC non basta, perché la TAC non vede, certamente non vede la sclerosi multipla, ecco, e non vede neanche alcuni di questi piccoli tumori. Siamo tornati insieme, oggi la puntata è dedicata alla nevralgia del trigemino, ma è arrivato il momento di fare il punto sull'influenza. In linea con noi oggi il professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Professor Remuzzi, ho bisogno di lei per capire tutta questa polemica, tutti i timori e le paure sugli adiuvanti. Se ne leggono di tutti i colori. Che cosa sono? Sono rischiosi? L'adiuvante si aggiunge ai vaccini per aiutare la risposta immune, che così è più vivace e il vaccino funziona meglio. Una volta i vaccini si preparavano col virus intero, che prima veniva ucciso o inattivato, e allora provocava lui una risposta immune. Adesso si fanno con una sola, certe volte, delle proteine del virus, addirittura qualche volta con pezzi di proteine del virus. Il vaccino è più pulito, lo si può preparare più in fretta, ma con queste preparazioni purificate la risposta immune è meno vivace e allora si usa l'adiuvante. È un'idea vecchissima, adesso gli adiuvanti sono perfezionati. Quelli che Glaxo e Novartis hanno messo nei vaccini per l'influenza pandemica che usiamo adesso sono emulsioni di olio e acqua. Sono indicati con delle sigle AS03, MF59. In Europa li usiamo dal 77. Allora uno può chiedersi se l'adiuvante fa male. L'adiuvante dà piccoli fastidi, soprattutto dolore, un po' di gonfiore nella sede dell'iniezione, dà affaticamento, ma la preoccupazione della gente è che in teoria l'adiuvante possa indurre una risposta immune generalizzata, cioè fabbrica degli anticorpi magari contro qualcosa che non sono solo le proteine del virus. Ad esempio, mi scusi professor Remuzzi, lo squalene si legge in internet che è collegato a delle malattie autoimmuni che hanno alcuni dei veterani della guerra del Golfo. Ecco, lo squalene è un olio che hanno le piante, gli animali, l'uomo, lo fabbrica il nostro fegato, circola nel nostro sangue, c'è in tanti dei cibi che prendiamo e c'è nei vaccini per l'influenza. L'olio è proprio squalene, questa miscela di olio e acqua, l'olio è squalene. Quello dei vaccini viene dall'olio di pesce, soprattutto dal fegato degli squali, e lo chiamiamo squalene, serve ad aiutare la risposta immune e così il vaccino funziona meglio. Che cosa avevano questi soldati della guerra del Golfo? Avevano o piccoli problemi, dolori muscolari, articolazioni, mal di testa, ma anche sclerosi multiple e addirittura tumori al cervello. Allora la gente ha detto è l'adiuvante, perché soldati americani e inglesi avevano avuto il vaccino dell'antrace che conteneva adiuvante. A distanza di anni si sono ammalati, quasi tutti avevano anticorpi antisqualene e allora hanno detto ecco, la malattia viene dagli anticorpi antisqualene. Poi invece qualcuno ha studiato bene il problema e ha scoperto diverse cose. Primo, che gli adiuvanti dei vaccini usati per i militari non contenevano squalene. E questo è il primo punto che da solo già fa cadere. Che da solo si potrebbe, certo. Molti di noi che non hanno mai avuto vaccini che contengono adiuvanti con squalene hanno anticorpi antisqualene. Quindi la presenza di anticorpi antisqualene non vuol dire malattia, perché molti di noi che siamo sani ce l'abbiamo. Ce li hanno. Chi riceve vaccini adiuvati, hanno studiato recentemente questo, ha più anticorpi di chi non è mai stato vaccinato? No. Quindi la teoria dello squalene e della guerra del Golfo è una teoria che non sta in piedi. Per quanto riguarda in generale la sicurezza, ci sono dei dati che in teoria questi, soprattutto negli animali, questi adiuvanti potrebbero indurre una risposta immune. Però se noi guardiamo quelli dei vaccini, abbiamo dati preliminari per dire che questa è una possibilità estremamente remota. Non si è mai verificato una malattia autoimmune in 26.000 persone trattate proprio con questi adiuvanti della influenza pandemica MF59. E questo è la somma di 44 studi. Poi Novartis ha usato 40 milioni di dosi di vaccino adiuvato negli ultimi anni per altri tipi di influenza, ma l'adiuvante è uguale e non sono emersi problemi particolari. Professor Remuzzi, la ringrazio. Per una prossima puntata parleremo anche del mercurio. Per il momento la saluto e la ringrazio. Grazie, arrivederci. E vi invito ad ascoltare l'approfondimento del professor Remuzzi su vaccini con adiuvanti per bambini e donne in gravidanza, che trovate sulla pagina di Essere Benessere andando sul sito di Radio 24. Carlo, il mio cavaliere di oggi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Carlo, la ringrazio per avermi accompagnata. Adesso è tempo di fare la sua domanda. È una curiosità, mi è successo alcune volte, mangiando un gelato, di avere una violenta fitta fra il naso e la fronte, sì, che durava pochi secondi. La cultura popolare diceva che hai mangiato il gelato troppo in fretta. Sì. Volevo sapere se è il nervo trigemino che ha fatto questa... ci mette lo zampino. Grazie Carlo, perché così rispondendo a Carlo risponde anche a me, professor Crucco. Prende due piccioni con una fava. con un gelato. Sono, voto per la cultura popolare, nel senso che lo stimolo freddo di per sé non è un comune trigger per la scossa della nevralgia trigeminale. Quindi mangiamo il gelato tranquilli, il trigemino funziona bene. Ma è doloroso perché è un'attivazione dei recettori del dolore da freddo, raggiungendosi in fretta temperature così basse, parte una scarica massiva che viene avvertita come dolore. Sarà capitato a tutti sentire dolore col gelato freddo. Però passa velocemente. Se il gelato è buono, è un dolore che si dimentica rapidamente. Vale la pena. Che possiamo sopportare. Allora abbiamo Carla che ci chiama da Roma, poi parliamo di terapie farmacologiche, ma rimanete con noi perché a volte si deve passare la mano al chirurgo. Carla, buongiorno. Buongiorno. Senta, anch'io ho lo stesso problema. Del gelato o della del gelato e forse, spero di non, della nevralgia al trigemino. Cioè praticamente mi inizia con un'improvvisa nevralgia ai denti, che poi si espande fino alla mandibola e fino agli zigomi. E poi sale fino all'occhio. Sì. Però la cosa strana è che non inizia mai nello stesso posto. Qualche volta colpisce i canini, qualche volta gli incisivi a destra oppure a sinistra. Ma la cosa strana è che il dolore non è fortissimissimo come dicono che dovrebbe essere quello della nevralgia del trigemino. Ma sai che non c'è un dolorimetro? Ciascuno sente il dolore. Sì, questo è vero. Però Carla, quindi la spiazza un po', le fa delle sorprese. Esatto. Almeno sull'insorgenza. Professor Crucu. Anche questo è facile perché... Ma per lei è troppo facile. Fate delle domande difficili al professor Crucu. Scusate. Ne ho una forse. No, voglio dire, volevo subito rassicurare la signora che il fatto che sia sopra, sotto, destra e sinistra, anche questo è un elemento fortemente contro la possibilità che sia il trigemino. Nel senso che per il trigemino, le scosse del trigemino possono cambiare territorio, ma lo fanno nel corso degli anni, perché dipende dalle fibre che stanno soffrendo. Quindi quando un dolore inizia una volta a destra, una volta sopra, una volta sotto, una volta a sinistra, certamente è un problema paradentale, ci sarà qualche cosa che non va bene nei tessuti di sostegno dei denti, credo. Quindi tutto sommato meglio, no? Tanto è vero che la prima cosa da provare è prendere un analgesico normale ma potente, un analgesico antinfiammatorio che sulla nevralgia trigeminale non fa assolutamente nulla, mentre su tutti questi dolori fa. Questa è una buona notizia. Lo scopre subito. Senta, quindi questo è un test che possiamo fare noi, però mi dice anche che evidentemente ci vogliono dei farmaci molto specifici per la nevralgia del trigemino. Sì, sono farmaci super specifici, e sono farmaci che nascono come antiepilettici, gli stessi che si usano per l'epilessia a partenza focale. Io non so se posso dare i nomi commerciali o preferite le molecole. Senta, facciamo le molecole che stiamo sul generale. Allora, il farmaco storico principale si chiama carbamazepina. Quello nuovo che è stato concepito per ridurre gli effetti collaterali e renderlo più tollerabile si chiama oxcarbazepina. Sì. E sono tutti e due prodotti dalla stessa azienda che il collega che mi ha preceduto ha nominato molto spesso. Sì. Vengono prescritti però possiamo anche farlo, tanto è il medico che li prescrive, vero professore? Non posso andare in farmacia e prendermelo per i fatti miei. Sono farmaci che dicevo che nascono come antiepilettici, agiscono bloccando l'ingresso del sodio all'interno della fibra nervosa e vanno presi assolutamente con cautela, vanno titolati lentamente, bisogna fare dei controlli del sangue su tutte le sedie ematiche, bisogna controllare movimenti del sodio, per cui all'inizio è delicato, il paziente non lo può fare da solo questo, mentre la signora si può prendere tranquillamente un analgesico antinfiammatorio, lo stesso che magari usa per il mal di schiena, a vedere se le vanno via i dolori in bocca, questo no, deve essere sotto assolutamente la guida del medico. Gli effetti collaterali sono pesanti, professore? Gli effetti collaterali più comuni sono effetti di depressione del sistema nervoso centrale, cioè qualche un po' di sonnolenza, un po' di senso di sbandamento, però in qualche caso invece ci sono degli effetti tossici sul fegato che sono abbastanza importanti, che costringono a controllare l'esame emocromo almeno una volta ogni 3-4 mesi. Siamo alla cosa interessante, professor Crucu. La cosa interessante è che finalmente siamo riusciti a fare delle linee guida d'accordo con gli americani, i neurologi europei e americani, perché c'era una diversa attitudine proprio sull'approccio terapeutico. E la cosa interessante è che si è concluso che se un paziente riesce ad arrivare ai dosaggi terapeutici attesi con uno qualunque dei due farmaci che ho nominato prima, sì, e non ha beneficio, sì, è inutile che provi farmaci di seconda, terza, quarta linea. Quindi se un paziente per esempio non riesce a prendere il farmaco perché ha controindicazioni o troppi effetti collaterali, allora vale la pena di provarne un altro. Ma se un paziente prende il dosaggio normale di uno di questi due farmaci e non ha successo, e allora è subito da riferirsi al chirurgo, perché la chirurgia del trigemino è molto molto efficiente. E guardi che noi il chirurgo ce l'abbiamo, perché in linea con noi abbiamo il professor Mario Meglio, direttore dell'unità operativa complessa di neurochirurgia funzionale e spinale del Policlinico Gemelli di Roma. Buongiorno professor Meglio, grazie. Buongiorno, grazie a voi. Professore, allora, noi veniamo da lei, vogliamo parlare con lei degli interventi, parla al plurale perché ci sono opzioni diverse. Ci sono sostanzialmente due approcci, sì, concettualmente diversi al problema chirurgico della nevralgia del trigemino. Il primo tipo di approccio è quello che prevede la rimozione della causa della nevralgia. Sì. Immagino che il professor Crucu abbia già... No, l'ha detta perché aspettavamo lei, che interveniva, proprio prendo questo sportellino, allora, ci faceva capire. Allora, direi che oggi come oggi, quella che è ritenuta unanimemente la teoria eziopatogenetica più accreditata, diciamo, della nevralgia del trigemino è la teoria del conflitto neurovascolare. In altri termini, vi sarebbe un'arteria, anzi vi è un'arteria in genere, sì, nella zona in cui nasce il nervo dal tronco del cervello, che lo schiaccia. C'è un'arteria che gli si mette vicino in maniera così molesta. Insomma, gli mette un po' il bastone tra le ruote. Esatto, e questo continuo stimolo della pulsazione dell'arteria crea tutta una serie di fenomeni per cui a un certo momento si mette in moto la nevralgia. Certo, quindi primo allora, intervento. Cioè, l'intervento, quello che vuole risolvere il problema, prevede l'apertura del cranio, una piccola craniotomia, l'accesso a questa regione con l'aiuto del microscopio operatorio e l'allontanamento dell'arteria dal nervo. Ecco, si tratta però di un'operazione, ecco, diciamo è un intervento che noi chiamiamo a cielo aperto, nel senso che bisogna guardare, entrare dentro il cranio. Da un punto di vista così dell'immaginario collettivo sembra spaventa. Cosa più aggressiva, sì, spaventa un po', però dal punto di vista anatomo-funzionale è il più rispettoso dell'anatomia, perché non fa nessun tipo di lesione sul nervo. Ok. È un intervento di pura dissezione anatomica, e cioè poi si allontana un'arteria da una struttura da un'altra. E poi con il trigemino non si avranno più problemi o quasi? Ecco, che no, un momento, ecco. Questa qui diciamo è una manovra chirurgica che nella stragrande maggioranza dei casi dà un'immediata scomparsa del dolore e a lunga distanza è quella che dà le maggiori probabilità di guarigione, sì, nel senso che il dolore poi non torna più. Diciamo che a distanza dall'intervento, diciamo a 2 anni dall'intervento, nelle maggiori casistiche un 80% dei malati non ha più dolori e si può considerare clinicamente guarito. Però non si può escludere al 100% che il dolore non torni poi nel tempo. C'è un'altra soluzione, così la diciamo rapidamente? Ecco, la soluzione alternativa prevede invece una penetrazione con una sonda attraverso la bocca all'interno del cranio, in una zona dove il nervo è particolarmente aggredibile, che è un rigonfiamento che si chiama il ganglio di Gasser. Sì. E una volta raggiunta questa regione si fa una lesione, sì, più o meno discreta, con mezzi che possono essere chimici, tipo iniezione di un alcol, oppure fisici, tipo con il calore, per esempio facendo una termocoagulazione, o addirittura facendo una compressione con un palloncino che viene introdotto sgonfio, sì, e sotto controllo radioscopico, e poi si gonfia e nel gonfiarsi schiaccia questo ganglio. Queste sono le manovre percutanee, vero, esatto, professore? Queste manovre concettualmente che cosa fanno? Fanno delle micro lesioni del nervo per addormentarlo, fra virgolette, per insomma dargli un disturbo del funzionamento che in qualche modo interrompe il meccanismo del dolore. Sì. Queste manovre hanno un'efficacia immediata altissima, però hanno una recidiva del dolore in tempi che sono valutabili intorno ai 2 anni. Però si possono rifare, si possono rifare. Il vantaggio è che si possono rifare, però attenzione, come ho detto sono manovre lesive, nel senso che c'è una sia pur piccola percentuale di pazienti che possono avere dei danni sensitivi, cioè un disturbo della sensibilità che può essere molto molto fastidioso. Quindi entrambe le soluzioni Sono pro e contro con tutte e due le soluzioni. Diciamo che concettualmente e tecnicamente la più elegante è l'intervento chirurgico di decompressione vascolare. Sì, quello dello sportellino, chiamiamolo così, lo sportellino dietro l'orecchio, aprite questo sportellino e andate dentro. Perfetto, però tutte e due le opzioni vanno proposte e valutate caso per caso, non porrei delle... Ecco, quindi anche il paziente poi deve dire la sua. Io ho meno di un minuto e sapete che poi mi sgridano, allora do la parola a Marina. Marina, velocissima. Senta, io volevo chiedere un'informazione. Io ho avuto lo zoster al trigemino. Sì. E mi ha lasciato, insomma, perché praticamente mi sento sempre tirare la faccia, non spesso, e volevo chiedere un... Professor Crucu, che è stato così bravo, dà un flash? Ma è quello che vorrei sapere quanti anni ha, perché mi sembra giovane. Io ho 54 anni. Giovanissima, brava. Beh, allora, se ho ben capito, lei ha avuto l'eruzione erpetica zosteriana... Sì. E c'ha ancora il dolore? Sì. Allora nei giovani, per la nevralgia postherpetica lei è più che giovane, sì, di solito c'è un recupero spontaneo. Quindi tra poco le passerà. Sì, esattamente. Magnifico, chiudiamo con questa bella notizia perché mi sfumano. Professor Giorgio Crucu, grazie per essere stato con noi. Professor Meglio, grazie anche a lei per la vostra chiarezza. Grazie, io vi do appuntamento come sempre a domani dopo il GR delle 11.